Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Gli umili fiori di campo appassiscono, ma tornano poi a fiorire. Il prossimo giugno Lavorno sarà dorato come adesso. Tra un mese questa clematide sarà coperta di stelle purpuree e di anno in anno la verde notte delle sue foglie racchiuderà quelle stelle di porpora. Ma la nostra gioventù non torna mai indietro. Il palpito di gioia che batte in noi a 20 anni si fa torbido, si indeboliscono le nostre membra, i sensi si corrompono. E noi degeneriamo in ripugnanti fantocci, ossessionati dal ricordo di passioni di cui avemmo troppa paura e di tentazioni squisite a cui non osammo abbandonarci. Gioventù, gioventù. Nulla vi è al mondo che valga la gioventù. Il ritratto di Dorian Gray, meraviglioso romanzo di Oscar Wilde, pubblicato nel 1890, tratta l'eterno dramma della giovinezza che fugge inesorabilmente. La vicenda narra di Dorian Gray, un giovane di rara avvenenza che stipula un patto col demonio grazie al quale rimarrà in eterno giovane e bello, mentre sarà un suo ritratto a portare i segni della sua decadenza fisica e della sua corruzione morale. Sono veramente così. È proprio realistico. È meglio della realtà. Lui resterà così. Tu invece, Gray, cambierai aspetto. Col tempo, madre natura cederà il passo a padre Bustle. Alcune cose sono più preziose perché non durano. Sciocchezze. Diventiamo vecchi e avvizziti perché gli dei sono crudeli e odiosi. Allora forse dovrei inchinare la mia anima all'altare di Satana. Per restare come sei? Ottimo scambio. Dorian non si venderebbe mai l'anima. Vero, Dorian? Lo faresti? Sì. Dorian si dà una vita di piaceri dissoluti e di delitti, ma la visione della sua immagine nel quadro, che subisce il peso delle sue azioni e diviene una turpe rappresentazione della sua anima, lo porta alla follia. Nella speranza di porre fine a quello scempio, Dorian accoltella la sua immagine nel quadro, ma sarà lui a morire. I suoi servi lo troveranno precocemente avvizzito e irriconoscibile ai piedi del ritratto ringiovanito, con il coltello conficcato all'altezza del cuore. Dorian Gray non è il solo a desiderare la giovinezza eterna. Dal Sacro Graal, donatore di immortalità e guaritore di ferite, al cui ritrovamento si dedicano i cavalieri di Re Artù, alla mitica fonte della giovinezza che si narra a sgorghi in Florida, cercata senza successo dall'esploratore spagnolo Juan Ponce de León. Dalla panacea dell'antica Grecia alla pietra filosofale di Nicolas Flamel sono infiniti i miti, le leggende, la letteratura che vengono dedicati a questo argomento che non lascia nessuno indifferente. Chi di noi non ha mai provato quella certa crema contro le rughe che pare tanto miracolosa, quell'esercizio ginnico che promette di contrastare l'inesorabile azione della gravità sul nostro corpo? L'economista statunitense Paul Zane Pilser, nel suo libro The Wellness Revolution, cita un dato impressionante. Attualmente gli Stati Uniti spendono 200 miliardi di dollari in fitness, cibi dietetici, vitamine e cure di bellezza, ma è un dato che è destinato a duplicare nel giro di pochissimi anni. Il numero delle persone che desiderano essere belle e rimanere giovani il più a lungo possibile sta infatti crescendo in maniera esponenziale. Perché gli esseri viventi hanno un ciclo vitale, destinato prima o poi ad esaurirsi? Che cos'è l'invecchiamento? È un processo naturale irreversibile che provoca modificazioni biologiche, morfologiche e psicologiche. Durante l'invecchiamento si verifica una riduzione delle abilità psicofisiche e una progressiva involuzione morfologica e strutturale. Alcuni studiosi affermano che esisterebbero dei geni regolatori che causerebbero, secondo uno schema predeterminato, i cambiamenti caratteristici dell'età senile. Altri ritengono invece che l'invecchiamento sarebbe il prodotto di una serie di modificazioni peggiorative che aumentano col passare del tempo e determinate in modo casuale. Un'altra teoria dell'invecchiamento casuale sostiene che una serie di errori combinati, mutazioni nel materiale genetico a seguito di alterazioni delle reazioni enzimatiche che intervengono nella replicazione del DNA, provocherebbero un danno irreversibile al DNA stesso, con conseguente modificazione delle caratteristiche biologiche della cellula. Come che sia, l'essere umano vive questo periodo naturale della vita in modo conflittuale, accettando in parte i cambiamenti e riprogrammando gli obiettivi personali e della quotidianità, cercando di costruire giorno dopo giorno un nuovo equilibrio fisico e mentale, ma anche tentando con ogni mezzo di contrastare l'invecchiamento. Essere giovani e sani in eterno, o almeno il più a lungo possibile, è il sogno di tutti, e la scienza medica si interessa con dedizione all'argomento. Ci sta pensando anche una donna che in questo preciso momento sta piegando il bucato. Sono le 5 del mattino e lei è già in piedi. La sua casa è silenziosa. Il marito Nathaniel e i figli Charles e Gwendolyn dormono ancora, ma lei è abituata ad alzarsi sempre molto presto, anche perché ha sempre tante di quelle cose da fare. Deve preparare la colazione, svegliare i figli e poi accompagnarli a scuola. Prima del lavoro l'aspetta poi la lezione di spinning. Si è iscritta in palestra perché ha un'attività sedentaria che la tiene immobile tutto il giorno. Insomma, una vita come tante altre donne, mogli e mamme di questo mondo. Ma proprio mentre sta mettendo il bucato nella cesta, pronto per la stiratura, suona il telefono. Accidenti, è molto presto, pensa la donna. Così si affretta a rispondere affinché i suoi familiari non si sveglino. Per il momento, lasciamola alla sua telefonata e vediamo intanto di scoprire chi è. Il suo nome è Carol Greida. Carol Greida. Carol vive con la sua famiglia a Baltimora, nel Maryland, ma non è sempre stata lì, anzi, è una donna che nella sua vita ha viaggiato moltissimo. L'insegnante di sostegno entra in una prima elementare. La sua allieva di quella mattina, Carol, è una bimba con grossi problemi dovuti alla dislessia. Non riesce a scrivere le parole con le lettere al posto giusto e non riesce a pronunciarle. Ha solo 6 anni, ma è chiaro ed evidente che il suo problema non le deriva solo dal fatto che da poco ha perso la madre, ma da qualcosa che nel suo cervello funziona in maniera differente dagli altri. È come un puzzle che non si incastra bene. L'insegnante sa perfettamente che la bambina non è contenta di vederla. Si sente osservata mentre mano nella mano con lei lascia la sua classe per una lezione privata di spelling. Ma la bambina si sente più che osservata, si sente diversa dagli altri, si sente triste, infelice, soprattutto stupida. Ecco, stupida. Una che non è capace, come tutti gli altri bambini, di mettere insieme le lettere giuste per comporre le parole. Le paiono così chiare nella sua mente le parole. Ma poi quando le deve leggere, quando deve fare lo spelling, tutto si fa confuso. Lei ancora non lo sa che è semplicemente dislessica, che soffre di una patologia che si può curare. Lei crede fermamente di essere stupida. Io e mio fratello maggiore Mark siamo nati a Davis, in California. Mio padre e mia madre lavoravano all'università di Berkeley. Papà era un fisico, la mamma biologa. Erano sempre molto impegnati e Mark e io andavamo a scuola da soli, benché fossimo ancora piccolissimi. Questo senso di responsabilità, ma anche di grande libertà, era bellissimo e ci faceva sentire grandi anche se avevamo solo 7 e 6 anni. A pensarci oggi, non ero affatto stupida se riuscivo a recarmi regolarmente a scuola, a piedi o in bici o con gli autobus, senza mai sbagliare strada o arrivare in ritardo. Però il fatto di non saper pronunciare alcune parole e non saperle scrivere mi faceva sentire una vera stupida e ho capito solo molti anni dopo che non era vero. Quando la mamma muore, Carol ha solo 6 anni. È facile immaginare quello che una bambina possa provare di fronte a un dolore così più grande di lei. Ma la famiglia Greida è molto unita. Papà, fratellino e sorellina si vogliono bene e si stringono gli uni con gli altri per cercare di superare questo momento terribile. Un cambio di vita è quello che ci vuole. A Davis ci sono troppi ricordi. Ecco perché Kenneth Greida decide di accettare un'offerta di lavoro che gli arriva dall'Istituto di Fisica Nucleare Max Planck di Heidelberg, in Germania. Mark e Carol non sanno una parola di tedesco, eppure continuano ad andare a scuola da soli e nel giro di 6 mesi padroneggiano la lingua, anche se Carol continua ad avere gli stessi problemi di dislessia. Questo fa sì che i suoi voti a scuola siano sempre molto bassi e Carol continui a sentirsi infinitamente stupida. Sentiamo l'opinione della dottoressa Sally Scheiwitz dello Yale Center for Dyslexia and Creativity. Nella nostra società vige la regola che se sei intelligente sei capace di leggere in maniera fluida e se leggi in maniera fluida allora sei intelligente. E questo è vero, per carità, ma non se sei dislessico. Nel caso della dislessia, puoi essere molto intelligente, molto motivato, provarci con tutte le tue forze, ma non riesci a leggere velocemente perché non è un fatto automatico. È un fatto inaspettato per persone intelligenti, colte, con un livello di istruzione superiore o una posizione professionale elevata. Molto difficile da accettare per chi ne soffre e anche per la famiglia. Carol è una bambina testarda, di quelle che non mollano mai. Senza saperlo, applica su se stessa un rimedio che viene comunemente usato per la cura del suo problema, e cioè si concentra su una cosa alla volta. Se studia, studia e basta. Se legge, legge e basta. Se passeggia, lo fa come fosse un compito da risolvere. E questo metodo lo applica anche alla ricerca assidua di un gruppo di amici con i quali confrontarsi e che non la facciano sentire diversa. Per lei ignorare gli ostacoli che la circondano è una sorta di kit mentale di sopravvivenza. Al rientro a Davis in California, al termine del lavoro di suo padre in Germania, Carol si concentra nella ricerca di nuovi amici e la cosa le riesce particolarmente bene. Mentre si trova nella biblioteca della scuola e sta ascoltando una sua coetanea che le racconta dei suoi problemi di adolescente, Carol si dimostra talmente partecipe da conquistare immediatamente la compagna e ben presto un nutrito gruppo di altri studenti. Beh, anche se non riesce a leggere bene, anche se questo comporta che i suoi voti non siano proprio eccellenti, la sua è davvero una vita bellissima. Carol Greida è un'adolescente affetta da dislessia. Fa fatica a leggere e pronunciare parecchie parole. I suoi voti a scuola sono piuttosto bassi, ma la ragazzina comprende che la sua diversità non è indice di stupidità come pensava da piccola. Questa sua presa di coscienza la porta a ottenere il diploma e a scegliere biologia all'università, anche in onore della madre deceduta che era una biologa. Dopo un anno all'Università di Santa Barbara e un periodo in Germania, a Göttingen, presso gli amici di suo padre, Carol deve ora scegliere di fare il corso di laurea. È indecisa tra il California Institute of Technology e Berkeley, e così si risolve a fare il colloquio in entrambe le università. Carol è di fronte ai 10 professori del Caltech. Ciascuno di loro le chiede di spiegare come mai abbia dei voti così bassi. Carol racconta del suo problema con la dislessia, del fatto che tutti i compiti che hanno degli standard di risposta sono per lei molto difficili e nonostante venga infine accettata, non è affatto contenta. Il colloquio alla Berkeley è di tutt'altra natura. La professoressa che Carol si trova di fronte non le sta chiedendo dei suoi voti, le sta raccontando di che cosa si occupa lei, quali sono gli studi che sta compiendo e quelli che eventualmente sarebbero i corsi di laboratorio che Carol farebbe se frequentasse lì. Carol è assolutamente impressionata da quella professoressa e sbircia sul suo cartellino di riconoscimento il nome, che all'inizio del colloquio ha ascoltato con distrazione. La prof si chiama Elizabeth Blackburn. Elizabeth Blackburn. Il modo nel quale Liz parlava dei suoi studi sui cromosomi, l'entusiasmo che ci metteva, mi contagiò come un virus. Avrei voluto che quel colloquio non terminasse mai e decisi che sarei tornata nei giorni successivi a parlare ancora con lei. Anche se i miei mentori mi consigliarono di andare al Caltech e addirittura mi dissero che non dovevo scegliere Berkeley perché ci avevano insegnato i miei genitori, io ero semplicemente elettrizzata al pensiero di lavorare con Liz. E così, nonostante i consigli di tutti, scelsi lei. Liz, o per meglio dire la professoressa Elizabeth Blackburn, è una donna molto risoluta. Quando si trova davanti Carol Greida, ha visto il suo curriculum scolastico, ma ha capito che anche se non ha voti eccellenti, è sicuramente una ragazza dotata e intelligente. Il suo modo di valutare gli studenti non rispecchia gli standard di solito impiegati dagli altri professori. Elizabeth è una donna molto, molto particolare. Una ragazzina poco più che decenne sta leggendo un libro in un angolo appartato del giardino di casa sua, al 3 di Olive Street a Launceston, in Tasmania, Australia. Si è rifugiata lì, cosa che le capita spesso, per trovare un po' di quiete. Ha due fratelli e quattro sorelle di tutte le età, e alcuni molto piccoli e rumorosi. Elizabeth Blackburn sta leggendo un libro che l'affascina veramente. Da sempre si interessa alle scienze, alla biologia. Piante e animali sono il suo argomento primario. Ne parla sempre e non perde occasione per raccontare ai suoi genitori la sua scoperta del giorno. Quello che ha letto, quello che ha visto, tutto la entusiasma. Ma quel libro che sta avidamente rileggendo per l'ennesima volta è addirittura speciale. In quanto brava moglie e madre, si occupava della casa, metteva al fuoco le pietanze da cucinare, faceva il bagnetto alla sua piccola bambina, ma poi correva di nuovo alla scuola di fisica. Non appena si era ripresa dal parto, aveva immediatamente ricominciato a frequentare il laboratorio. Perché è lì che insieme a suo marito stava per fare la più importante scoperta della scienza moderna. Nella biografia Madame Curie, in cui racconta la vita della madre Maria e del padre Pierre, scopritori del radio e per questo insigniti del premio Nobel, la secondogenita dei due scienziati, Eve Curie, descrive nei minimi dettagli la vita della madre. Una vita che appare alla giovane Elizabeth Blackburn una meravigliosa avventura da prendere ad esempio. Lessi e rilessi quel libro un milione di volte fino a consumarlo. Nella mia immaginazione di ragazzina pensavo che anch'io avrei potuto fare una scoperta che aiutasse l'umanità e che anch'io avrei potuto ricevere il Nobel. Naturalmente sapevo benissimo che erano solo sogni, ma la vita di Madame Curie mi influenzò tantissimo e scelsi di diventare una scienziata proprio grazie al suo esempio. Decisamente determinata, Liz, come tutti la chiamano, si laurea in biochimica e riesce a ottenere una borsa di studio presso il laboratorio di biologia molecolare di Cambridge, attraverso l'interessamento di un suo professore. Liz è un po' spaventata. Lasciare la famiglia le pesa e l'Inghilterra è molto lontana dall'Australia, ma la fortuna vuole che proprio a Cambridge abbia degli zii. La ragazza si fa forza e parte. È proprio qui in Europa che Liz si avventura per la prima volta in un mondo che non lascerà più, quello della ricerca sul DNA. Ma non è l'unico incontro interessante che fa. Nel laboratorio di biologia molecolare lavora un giovane ricercatore di nome John Sedat e onestamente Liz fa fatica a comprendere se le piace più l'interessantissima ricerca sul DNA o il suo interessantissimo ricercatore. Sta di fatto che nel giro di breve tempo i due decidono di sposarsi. Per Liz questa è una scelta che influenza enormemente la sua vita, non solo, come ovvio, quella privata, ma anche quella professionale, che si trova ben presto a una svolta decisiva. John ricevette una irrinunciabile offerta di lavoro come ricercatore a Yale. Io volevo stare con lui, ma partendo avrei perso la mia borsa di studio. Devo dire che non ci pensai su un secondo. Sarei andata con lui a Yale. È il 1975 quando Elizabeth Blackburn arriva negli Stati Uniti. Due anni dopo il marito viene trasferito a Berkeley e Liz, da brava moglie, lo segue. La donna fa di tutto per trovare un lavoro e poter proseguire nei suoi studi sul DNA. Fa domande un po' ovunque e riceve molti no. Ma non si perde d'animo e infine la sua perseveranza è premiata. Le offrono la posizione di professore associato presso il Dipartimento di Biologia Molecolare dell'Università della California. Liz è felicissima. Sa che quello è il luogo adatto per poter proseguire quello che ha iniziato. Alterna i suoi studi di laboratorio all'insegnamento. Ed è così che un giorno si ritrova davanti quella ragazza che a lei pare decisamente dotata. Sarà anche vero che non ha dei voti altissimi, sarà dislessica, ma la passione che traspare chiaramente dai suoi occhi fa subito pensare a Liz che quella ragazza, proprio lei, nessun'altra, sia la persona giusta da mettersi al fianco per proseguire i suoi esperimenti. E così, quando deve scegliersi un assistente, è proprio su di lei che cade la sua scelta. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi stiamo raccontando la storia di una professoressa e della sua allieva, Elizabeth Blackburn e Carol Greider. Si incontrano all'Università di Berkeley nel maggio del 1984, quando la giovane Carol arriva per la sua specializzazione in biologia e viene scelta da Elizabeth, anche se i suoi voti non sono altissimi. Carol, infatti, è dislessica e ha difficoltà a leggere e scrivere molte parole, ma questo non ha nulla a che vedere con la sua intelligenza, che è viva e acuta. Elizabeth Blackburn è una professoressa un po' sui generis. In realtà è principalmente una ricercatrice impegnata in una serie di studi sui cromosomi, e ne parla a Carol, la quale si interessa già da tempo al DNA. Le due donne si trovano subito bene, si sono simpatiche e si accorgono di avere molte cose in comune. Iniziai a lavorare subito ad uno studio del quale si stava occupando Elizabeth. In collaborazione col professor Shostak, Liz stava studiando già da alcuni anni la struttura dei telomeri, che sono l'estremità dei cromosomi. Era un argomento che mi affascinava e mi buttai a capofitto in questa ricerca. Lo studio che sta effettuando Elizabeth Blackburn è alquanto complesso. Le cellule del DNA sono in grado di duplicare il loro patrimonio genetico, che verrà poi distribuito alle cellule figlie, le quali risulteranno dunque identiche alla cellula progenitrice. Esse non sono però in grado di sintetizzare e copiare le estremità di un frammento di DNA, che quindi andrebbero perse. Per evitare la degradazione delle estremità cromosomiche e quindi la progressiva e rapida perdita del materiale genetico, le cellule possiedono un importante meccanismo di difesa. Esistono infatti sequenze di DNA poste alle estremità dei cromosomi che svolgono il ruolo di protezione del materiale genetico, i telomeri. Questi, che sono costituiti da sequenze di DNA ripetute, a ogni fase di replicazione del DNA vengono accorciati e prevengono in questo modo la perdita di DNA codificante. Ovviamente, alla lunga le estremità telomeriche vengono perse e le cellule iniziano ad accusare i danni sempre maggiori ad ogni divisione finché non muoiono. I telomeri sono quindi fondamentali nel determinare la lunghezza della vita di una cellula e per questo sono considerati una sorta di orologio biologico cellulare. Quello che cercavamo era di capire come avvenisse questa duplicazione dei telomeri. Se avessimo scoperto cosa faceva sì che le sequenze di DNA si potessero replicare, forse potevamo rendere eterni i telomeri e di conseguenza eterne anche le cellule, una sorta di elisir di lunga vita. Che cosa fa invecchiare le cellule e che cosa invece le mantiene in vita? Ma soprattutto, che cos'è che permette ai telomeri di replicarsi? È questo lo studio al quale Liz e Carol dedicano le loro giornate dividendosi tra famiglia e casa. Per 8 mesi, Carol studia a fianco della sua professoressa il processo di duplicazione delle cellule di DNA, facendo esperimenti su esperimenti. Liz è sicura che esista un enzima che permette ai telomeri di non accorciarsi durante la divisione cellulare. Ma per 8 mesi, niente. Poi una sera Carol si ritrova nel laboratorio. È la vigilia di Natale e lei sta organizzando le ultime cose. Ma è passata un attimo per guardare i suoi esperimenti. Liz è già andata a casa da suo marito, ma Carol è inquieta. Possibile che non riesca a replicare in laboratorio quello che avviene in natura, quello che succede ai telomeri che riescono incessantemente a riprodurre le sequenze di DNA? Carol decide di cambiare una delle sostanze dell'esperimento e subito dopo chiude tutto e si precipita a casa. In fondo, è la vigilia di Natale. Christmas bells, ringing loud and strong. Il 25 dicembre 1984 è un bellissimo Natale come tanti altri, per la maggior parte delle persone è un giorno da passare in famiglia coi propri cari. Ma ci sono due donne che, pur essendo alle prese con i manicaretti tipici delle festività, pur gioendo coi propri cari per le sorprese trovate sotto l'albero o con gli amici più stretti, stanno anche pensando ad altro. Sono Elizabeth Blackburn e Carol Greida, due ricercatrici dell'Università di Berkeley che stanno effettuando già da parecchi mesi alcuni esperimenti sul DNA. In particolare, Carol è agitatissima. La sera prima ha cambiato una delle sostanze nell'esperimento che sta conducendo con Elizabeth per trovare la spiegazione del perché i telomeri, cioè la parte finale dei cromosomi, non si accorcino durante la divisione cellulare. Non stavo più nella pelle, così lasciai i miei amici a casa e feci una corsa in laboratorio. Quello che vidi mi lasciò letteralmente di stucco. L'enzima che stavo cercando aveva migrato sulla lastra autoradiografica. Chiamai subito Liz. Lei ne fu letteralmente sconvolta. È Eravamo entrambe scioccate. Beh, erano mesi e mesi che facevamo esperimenti senza ottenere alcun risultato. Le due ricercatrici si ritrovano nel laboratorio. Mentre sono fianco a fianco davanti ai risultati del loro esperimento, sentono l'altra tremare per l'emozione. Per maggiore sicurezza, iniziano un protocollo di analisi dei risultati. Il rischio di una valutazione errata c'è e loro vogliono essere ben sicure di quello che fanno. Prima di divulgare la notizia, provano, riprovano, riproducono innumerevoli volte il test, ma infine hanno la certezza di quanto scoperto. L'azione dell'enzima che chiamano telomerasi è qualcosa di assodato e può essere comunicato alla comunità scientifica. Elizabeth Blackburn e Carol Greida ricordano quel momento con grande commozione in un'intervista congiunta alcuni anni dopo. Sono stata molto fortunata perché Carol era una studentessa fantastica. Era così intelligente, ma anche capace di portare avanti le cose. Sapeva scegliere quello che era importante e sapeva usarlo per progredire. Noi lavoravamo gomito a gomito e ci divertivamo molto. Era come risolvere una specie di puzzle. Volevamo capire come funzionavano i telomeri e facevamo esperimenti su esperimenti. Era proprio un puzzle da risolvere, molto divertente. E poi non sempre eravamo d'accordo. Una volta io volevo procedere in un certo modo e Liz in un altro e discutemmo parecchio. Poi la mattina dopo lei aveva deciso di fare come dicevo io e io come diceva lei. Un vero divertimento. Alcuni giorni io ero depressa perché non approdavamo a nulla e Carol invece era tutta speranzosa e mi dava coraggio. Poi magari la volta successiva era lei ad essere scoraggiata e io le dicevo che ce l'avremmo fatta. Queste cose ci hanno fatto andare avanti bene fino a quel fatidico Natale. La telomerasi, l'enzima scoperto da Elizabeth Blackburn e da Carol Greida, la sua allieva e collaboratrice, è certamente uno degli attori protagonisti nel meccanismo di invecchiamento cellulare. Questa proteina è dotata della capacità di sintetizzare le sequenze dei telomeri e di conseguenza è capace di allungare l'esistenza cellulare. Infatti, nella maggior parte dei tumori costituiti da cellule in continua, incontrollata proliferazione, l'attività della telomerasi è altissima. Elizabeth e Carol si rendono presto conto di avere per le mani qualcosa di importante. Se in un primo momento l'eccitazione dovuta alla scoperta della telomerasi le prende totalmente, anche perché iniziano una serie di esperimenti con altri colleghi impegnati sullo stesso fronte di ricerca, successivamente le implicazioni della loro scoperta diventano un punto cruciale per loro, come ricorda Carol. Fu in un secondo tempo che ci venne la curiosità di capire quali potessero essere le implicazioni della nostra scoperta. Divenne un'inevitabile domanda per noi. Che cosa succede se non hai la telomerasi? Questo ci portò alla questione del cancro e del ruolo dei telomeri nelle malattie tumorali. Fu un percorso progressivo. La scoperta di Liz e Carol apre in breve tempo la strada a un filone di ricerca immenso, soprattutto per le implicazioni cliniche che si rivelano utili nella ricerca di una cura per il cancro. Si sa che le cellule cancerose possono dividersi all'infinito senza che i telomeri si accorcino grazie all'iperattività della telomerasi. Il cancro potrebbe dunque essere trattato, tra l'altro, spegnendo la telomerasi. Diversi studi sono in corso tuttora, inclusi test clinici su vaccini che hanno come bersaglio le cellule con un'elevata attività della telomerasi. Le due donne procedono dunque per anni nelle loro ricerche, che regalano loro una grande notorietà non solo nell'ambito strettamente scientifico, ma più in generale, visti i risvolti che le loro scoperte possono avere in campo medico. Questo fa sì che le scienziate vengano insignite di ruoli importanti nella società scientifica americana. In particolare Elizabeth Blackburn diviene presidente del Consiglio sulla bioetica nel 2001. Per Elizabeth è un grande onore che la rende molto felice che divide con l'amica e collaboratrice Carol Greida, ma è un incarico destinato a causarle un grande dolore. Nel 2004, infatti, l'amministrazione del nuovo governo di George W. Bush la fa rimuovere dal suo posto, causando lo sdegno del mondo scientifico. Elizabeth è indignata. Mentre legge la lettera di licenziamento, non riesce a trattenere la rabbia che le fa immediatamente rilasciare ai media una dichiarazione molto pesante. C'è una crescente sensazione che la ricerca scientifica, che dopo tutto è definita dalla volontà di trovare una verità, stia venendo manipolata per fini politici. Questa manipolazione si sta raggiungendo attraverso l'accumulo di organi di consulta e attraverso la non corretta interpretazione dei loro verdetti. In un editoriale sul New England Journal of Medicine, Elizabeth dichiara di essere stata estromessa dal Comitato statunitense sulla bioetica perché le sue posizioni, basate sull'evidenza scientifica, contrastano con la linea conservatrice del presidente George W. Bush, ostile per motivi religiosi all'uso delle staminali nella ricerca. Si tratta di una questione che trova posizioni simili un po' ovunque, laddove vi sia ricerca su cellule ricavate dall'embrione. Nonostante la battuta di arresto, Elizabeth e Carol non si arrendono. La loro collaborazione è più forte di qualsiasi restrizione e le porta lontano, molto lontano. Lo scopriremo tra poco, a Destini Incrociati. I know that you ain't coming back. In the beginning everything was cool, toward the end of it all it's all bad. I know I played my part in making it what it is, and I know that you did the same. I guess I'm up out of here, I'm moving on again. I'm sure that you will understand. Destini incrociati. Considerate l'intero processo della vita come un processo di nascita continua e non ogni stadio come se fosse lo stadio finale. La maggior parte della gente muore prima di essere completamente nata. Creatività significa nascere prima di morire. È importante perciò conservare questa predisposizione a nascere ogni giorno. Il grande psicoanalista e sociologo tedesco Erich Fromm sottolinea l'importanza di una corretta attitudine nei confronti della vita e della capacità degli esseri umani di rinnovarsi continuamente. Analogamente, ciascuna cellula della quale ognuno di noi è composto si rinnova in continuazione, scindendosi e moltiplicandosi un numero altissimo di volte prima di morire. Ma ad ogni divisione i nostri cromosomi si consumano un po' alle estremità, perdendo frammenti di DNA, quello che presiede alla sintesi proteica ed è quindi vitale per l'organismo. A proteggerli ci sono i telomeri, sequenze di DNA non codificante che si consumano al loro posto. I telomeri sono a loro volta destinati a esaurirsi, ma sono protetti dall'enzima telomerasi che li ricostruisce di continuo. Con l'età però la telomerasi diminuisce e perde la capacità di riparare i telomeri. Scoprire il perché potrebbe aiutare a invecchiare meno in fretta e meglio. È questo che studiano incessantemente da anni Elizabeth Blackburn e Carol Greida, due scienziate che si incontrano nel 1980 alla Berkeley University in California. A quel tempo Elizabeth è professoressa di biologia e Carol una sua allieva. Ma ben presto le due donne diventano inseparabili ricercatrici e dalla loro collaborazione si arriva a una delle scoperte più importanti in campo scientifico degli ultimi anni, appunto l'enzima della telomerasi. Da allora, le due ricercatrici continuano a studiare il fenomeno, cercando di capire le implicazioni mediche della loro scoperta, che potrebbe essere molto utile nella cura dei tumori e di alcune malattie genetiche. Uno studio condotto dalle due ricercatrici pone in luce uno stretto legame tra lo stress psicologico e l'attività della telomerasi, come conferma Elizabeth Blackburn. Abbiamo notato che nelle persone costrette a vivere per lunghi periodi in situazioni psicologicamente pesanti, sul lavoro o in famiglia, diminuisce la capacità della telomerasi di difendere i telomeri dall'erosione e aumenta in parallelo la tendenza alle malattie cardiovascolari e tumorali. Invece sappiamo per certo che l'attività fisica regolare sollecita l'azione della telomerasi, dunque migliora la salute e allunga la vita. Le scoperte di Elizabeth Blackburn e Carol Greida e i loro successivi studi non passano inosservati alla comunità medica. Nel 2009 le due scienziate vengono insignite del più alto riconoscimento nel campo della ricerca medica, il Nobel per la medicina, che viene loro assegnato unitamente al dottor Jack Szostak, che negli anni Ottanta studia con Elizabeth l'azione dei telomeri. Le due donne ricevono l'annuncio del premio di Stoccolma nelle loro rispettive case all'alba. Il loro racconto è estremamente divertente. È stato decisamente elettrizzante ricevere quella telefonata alle 5 del mattino. Ero sveglia perché io a quell'ora faccio un po' di esercizio fisico. Stavo aspettando di andare alla mia lezione di spinning e intanto piegavo il bucato. Quella mattina dovetti saltare la lezione perché successero un sacco di cose. Subito dopo ricevetti una telefonata da Liz. Io pensai che era meglio chiamare Carol subito, perché poi il telefono sarebbe stato costantemente intasato. Stavo dormendo quando suonò il telefono e io e mio marito pensammo subito che fosse capitato qualcosa a mia suocera, che al tempo aveva 95 anni. Avevamo festeggiato il suo compleanno proprio quel weekend. Per fortuna, la notizia che mi dettero fu decisamente migliore. Elizabeth riceve un'altra telefonata che le fa molto piacere. È quella del governatore della California, Arnold Schwarzenegger, che si complimenta con lei. Dottoressa Blackburn, volevo complimentarmi con lei per il suo prestigioso premio che fa onore a tutta la California. Lei è uno di quegli immigrati che danno lustro alla nostra California. È la stessa cosa che penso anch'io. Grazie, governatore. Siamo entrambi immigrati. Sì, solo che io quando sono arrivato e dicevo che venivo dall'Austria, mi sentivo sempre dire la stessa cosa. Oh, bellissima l'Australia. Almeno ho saputo subito che il suo paese, l'Australia, è un paese bellissimo. Ancora congratulazioni e complimenti per il grandioso lavoro che fate. Per tutto quello che hanno realizzato, Liz e Carol rappresentano non solo due grandi scienziate e una speranza per la medicina moderna, ma anche un punto di riferimento importante per molte donne che decidono di mettere il camice bianco e di coniugare ambizioni professionali e famiglia. Non a caso, quando le viene chiesto se il Nobel rappresenti per lei la cosa più bella che le sia mai capitata, Carol risponde che la cosa più bella sono i suoi due figli. Parlando di effetto founder, per cui in un mondo di uomini le donne fanno fatica a ricoprire posizioni di dominio, Carol sottolinea ancora una volta la sua esperienza con Liz, esempio meraviglioso di grande collaborazione e amicizia al femminile. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes.